alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarre. 18ª puntata. Allorché mi toccò riordinare le cose di mia madre dopo la sua morte, ritrovai alcune lettere ancora chiuse. Mai aperte le lettere di alcune delle sue font tedesche, Liebes Signor Hen, tra cui persino le ultime di tante Erna, amica carissima e zia della nostra infanzia. In Germania mia madre corrispondeva anche con il comandante che era stato il suo capufficio al reparto economico del comando tedesco a Torino, dove essa lavorava come interprete. Lei, che passava regolarmente informazioni al Comitato di Liberazione Nazionale, stimava quest'uomo pacifico e onesto, il quale dopo la guerra le scrisse a lungo: «Liebe, sehr verehrte Frau Cosson, cara, egregissima signora Cosson». Chiuse le lettere della cugina che aveva dato notizia della morte di nostro padre. Soltanto la prima, scritta fitta su fogli di carta trasparente, era aperta. Mia madre non ce l'aveva mai fatta leggere, pur riferendoci il contenuto. La cugina aveva scritto ancora, chiedendo come mai non avesse avuto risposta. Chiusa la lettera dell'avvocato di mio zio, in cui egli insisteva per mettere in chiaro la situazione della casa di Torre Pellice in seguito a un processo con esito negativo per mia madre. Non aveva mai aperto questa corrispondenza, come non aveva lasciato alcun cenno scritto d'una sua volontà, ma l'aveva serbata intatta nei suoi cassetti, consegnandosi a me nascosta. Eravamo in realtà presenti l'una all'altra in prima persona, soprattutto e soltanto nelle lettere che ci scambiavamo, epifania probabilmente decisiva in molte occasioni. Non appena essa si fu stabilita da noi con i suoi mobili e le sue cose, dalla sua pulita e lucida stanza veniva 3 volte alla settimana una donna ingaggiata e pagata da lei a rassettare anche nelle altre camere, incominciò a diffondersi nella mia penombra una luce implacabile che mi scovava nei momenti più silenziosi e negli angoli più remoti. Se vi stavo rimpiattata con un'immagine dell'infanzia dei miei figli, un'inesatta data familiare, una mossa da clown, ecco che lei, precisa, mi ritagliava in una lama abbagliante, riducendo, rimpicciolendo, depossessando. Nel mio limbo mi ero riparata in una vita nebbiosa, senza contorni. Erravo avanti e indietro sulla pista degli stessi pensieri: farla finita con il mio matrimonio, stare da sola con i 2 figli rimasti con me, prendere un'altra casa piccolissima a 2 passi dalla scuola. E cercavo di raccogliere di qua e di là, in modo disordinato e un po' maniacale, le briciole esclusivamente mie da conservare. Elencavo tra di me quello a cui ancora tenevo e quello che avrei buttato via senza rimpianti. Avevo svuotato la mia stanza di mobili, collocato i miei libri, le mie collane, le creme e qualche fotografia senza cornice su scaffali di ferro ereditati dalla stanza d'un figlio. Cercavo di strapparmi via gli orpelli di donna che ancora mi rimanevano. Non ho più bisogno di simboli, mi dicevo, della tazzina a quadretti bianchi e blu, unico ricordo della mia infanzia a riga, delle magliette rosa di mia figlia neonata, del vaso d'argento sbombato per le frequenti cadute dal mobiletto nell'entrata da cui i figli, passando di corsa, lo rovesciavano. Una sera buttai nel water la mia fede matrimoniale. Tesorizzavo invece incontri anche casuali con chiunque. Con la bella donna sconosciuta incontrata in piazza San Carlo durante un comizio, un mattino di giugno 76. Giravo di qua e di là, tra la folla di giovani e di ragazze, blue jeans, gonne a fiori, zoccoli ai piedi, bambini a cavalcioni sulle spalle, giovani poliziotti in borghese dal viso rasato di fresco in mezzo a quella gioventù un po' sporchetta con le sue bandiere rosse. Ero visibilmente l'unica madre della piazza, l'unico padre, Vittorio Foa, sul palco. e non mi decidevo a fermarmi, finché dietro il palco trovai quell'altra madre della mia età in un asciutto ed elegante vestitino a fiori, anche lei alla ricerca di un posto. Chiacchierammo qualche minuto. Lei mi guardava con bellissimi occhi verdi e luminosi. Aveva 8 figli, mi disse. La capigliatura scura era striata di bianco e se n'era andata di casa con i più giovani. Era dalla loro parte, contro il marito e i figli più vecchi. Parlava calma e decisa. Camminavo spesso da sola e a lungo per le strade della collina, talvolta con la mia amica Lalla. Ci compiangevamo per le nostre vertebre, a lei doleva la nuca, a me la schiena, che a distanza di secoli risentivano ancora dell'umidità sofferta da antenati comuni, da parte di padre lei e di madre io, mentre difendevano la fede su per le montagne. Nelle nostre parole tranquille le indicavo i nomi di alberi e di fiori, parlavamo di scuola e di libri. Stava fermo il buon senso, disceso anch'esso con l'artrosi dalle caverne ancestrali, amara scelta che raddrizza stento la schiena e che in verità, ciò lo sapevamo entrambe, ben poche consolazioni offre, fuorché appunto la fiducia in chi ci è compagno nel ragionare. Passione sempliciotta, contegnosa, adatta ai passi di chi sale e scende. In casa, stanata dai miei angoli, eventuali mie insoddisfazioni non potevano che essere dovute al mio cattivo carattere, della terribile furia interiore che senza direzione e senza scopo mi rodeva. Mia madre, ingenua, indifferente, concentrata sui propri mali, non percepiva nulla e continuava ad appoggiare le sue sventure alla mia felicità, tale per definizione. Puntualizzata e ricondotta al mio ruolo di cattiva ragazza, mi dibattevo nella costrizione materna che pareva ripetere e mettere in rilievo i torti già subiti nella mia vita di donna, il disconoscimento del lavoro delle mie mani, dovuto l'affanno solitario delle pur esse ovvie responsabilità. Al di sopra di una maturità non assaporata, ero balzata non nella rassegnazione della vecchiaia, ma nel disordine di un'adolescenza innaturale, stretta nelle tenebre senza tempo, di parole non potute dire e di atti incompiuti. Attraverso l'involontaria mediazione dei miei figli, avevo compiuto il solito balzo in avanti, il cieco balzo razionale, dietro cui mi toccava ora arrancare, zoppicando. Non ero pronta. Ambedue, mia madre ed io, non eravamo pronte alla vecchiaia. Questa sembrava una mia immaginazione. Mia madre voleva apparire sempre la stessa. E proprio come avevo già sostenuto, cancellandomi la figura pubblica di mio marito, dovevo adesso sorreggere lei nel suo orgoglio. Continuamente durante la giornata mi veniva da chiedere: e io? Sulle sue cocciutaggini, le sue ostentazioni di virtù, i suoi piccoli inganni, non riuscivo affatto a sorridere con affetto come i miei figli. Non arrivavo a non scorgere intenzioni e propositi nel suo agire, quasi essa giocasse contro di me, soltanto contro di me, quella sua ultima carta. Che cosa erano i miei malanni, le mie sfacchinate di fronte alla morte che lei vedeva avanzare, per mettermi a tacere, come sempre. Poco dopo che essa si fu stabilita da noi, Gianni dovette improvvisamente essere operato d'un calcolo alla cistifellea. Aveva goduto sempre di una salute fisica perfetta, anche in periodi in cui invece lo avevano agitato sovreccitazioni nervose. Alle sue notti insonni, quando di solito riusciva a dormire anche 12 ore di seguito, ai suoi improvvisi e inarrestabili flussi di parole, avevo imparato a badare. Ma non mi ero mai dovuta preoccupare per le sigarette che fumava, il disordine dei suoi orari, il suo imprevidente modo di vivere. Gli invidiavo quella sua salute, ma la consideravo una sicurezza su cui contare. Nello stesso autunno avevo curato il trasloco di mia madre da noi, le avevo fatto trovare tutto pronto, l'argenteria lustra sul tavolino, i libri in ordine negli scaffali. Allorché Dopo un mese d'ospedale, Gianni stava per ritornare a casa poco prima di Natale, accettai l'invito ad un soggiorno di 3 giorni nel Lazio con i miei amici Vera e Roberto, tra i pochissimi di vecchia data con i quali mi sentissi ancora a mio agio. Preparai tutto con la solita cura. I miei figli erano abituati a tener casa senza di me una volta pronto l'essenziale. Mia madre accolse in silenzio l'annuncio della mia partenza. Come sempre, avevo dovuto superare la mia paura per andarle a parlare. Più che un colloquio, era stato un mio monologo. Lei aveva taciuto, non guardandomi mai in faccia, ma fissando gli angoli della sua stanza. Un'ora dopo ero in cucina dove riempivo i contenitori con le pietanze dietetiche di Gianni. Lei si affacciò sulla soglia. «C'è Laura di là al telefono, ti vuole?» Stava ferma sulla porta e si stropicciava pian pianino le piccole mani appoggiate in grembo, gesto che faceva di sovente, come per scaldarsele, ma che in quel momento mi parve esprimere come una segreta soddisfazione. Con le sue manine me le mostrava di regola dopo aver preparato per noi uno dei suoi ottimi minestroni, lamentando ogni volta la pelle sciupata per aver sbucciato e tagliato le verdure. Andai al telefono in soggiorno. Mia figlia aveva una difficile gravidanza, aveva perso un bambino in un aborto 2 anni prima e ora, al terzo mese, era stata costretta di nuovo a mettersi a letto. Questo a mia madre non l'avevo detto, le nascondevo il più possibile le difficoltà familiari, non so in realtà se per riguardo o per non avere a sopportare anche le sue ansie, oltre alle mie. Mi ha detto la nonna che vai via. Dunque, mia madre le aveva telefonato. Mi venne in mente che non avevo udito infatti lo squillo del telefono. 3 giorni, dissi. Vado con Vera e Roberto, sono stanca. Lo sai che anche quasi tutta l'estate l'ho passata in città con la nonna. Mia figlia di là tacque. Io mi affannai. Ho preparato tutto, come sempre. Papà torna domani dall'ospedale, disse mia figlia. E non soggiunse altro. Mi resi conto, ma riluttavo ancora a crederci, che mia madre l'aveva chiamata per lagnarsi di me che partivo, che le lasciavo la casa sulle spalle, a lei, che era servita di tutto punto da tutti. «Vedrò sabato, papà», dissi. «Guarda che sta benissimo ed è contento che io mi faccia un po' di vacanza. Non ho che questi 3 giorni». «Ciao, allora», disse mia figlia, con la voce incolore e nevosa delle sue perplessità, e attaccò il telefono. In quell'attimo mi risucchiò un moto intimo così violento da svuotarmi di qualsiasi reazione che non fosse la furia che mi tenevo dentro da anni. Lei, mia madre, vissuta libera come un uomo, alla quale altre donne, come a un uomo, avevano allevato figli e nipoti, come un uomo mi ricacciava al mio posto di serva. Mi ricattava per mezzo dei miei figli, di mia figlia, sollecitando la loro complicità. E così, proprio così, non avrebbe esitato a chiedere quella di Gianni perché io continuassi a reggere la costruzione in cui mimetizzarsi senza dovermi nulla. Lei, che l'estate scorsa, mentre ogni giorno le allacciavo e slacciavo il busto ortopedico, pur gemendo per il dolore, non s'era mai lasciata sfuggire una parola di biasimo per il silenzio di mia sorella, partita in una crociera d'un mese, ma non aveva mancato di esclamare in un precisante e intenzionale plurale: «Povere figlie mie, vostra madre vi cade sulle spalle». Andai in camera di mio figlio Pietro. Mentre camminavo come folgorata, non riuscivo ad articolare tra di me in una iterazione frenetica se non sempre la stessa frase: «Tu che non ti prepari da sola una tazza di tè, tu che non ti prepari da sola una tazza di tè». «Non parto», dissi a Pietro, «non è possibile». «Ma perché, mammi? Ti farebbe bene». «Non posso», dissi, «la nonna ve la farebbe pagare». «Con la nonna me la cavo io». «No», dissi, «non te la cavi, soltanto io so in che modo tenerla a bada». Nelle settimane che seguirono le servì instancabilmente, quasi contratta in un crampo di vendetta, i miei doveri. Non venni meno a una parola di forma. Non aveva sempre tanto tenuto la forma? A una minestrina, a un tè mattutino per l'influenza, a una pastiglia per il mal di schiena, a una passeggiata nel primo sole di primavera. Visse con la figlia che lei stessa aveva voluto, la cattiva, utile ragazza. Sotto la doccia, dove nessuno poteva sentirmi, sfogavo la mia ira insultandola ad alta voce. Dicevo, come in una litania, feci, catarro, orina, non dimenticare i tuoi doveri. Quando, vedendomi sfaccendare in cucina, mi chiedeva, bonaria e golosa, che cosa dai oggi al tuo malato, su quel tuo che ancora una volta mi incatenava alle malattie dei miei familiari e alla sua vecchiaia come a un momento naturale della mia vita, io l'avrei uccisa. In quei mesi, però, in cui mi ritrovò come figlia, mi accorsi che essa incominciava ad avere paura di me, della mia fatica, della mia rabbiosa e muta amarezza. Il tempo, che sinora ci aveva negato una storia, aveva rovesciato le parti. Io, la madre, e lei, la bambina. Non la madre, tuttavia, che ero diventata per i miei figli, ma la madre che lei stessa era stata, irraggiungibile e perfetta nel firmamento dell'infanzia. E lei temeva in me il proprio disamore. Perché semplicemente questa era la certezza che mi aveva fulminata mentre andavo in camera di Pietro. Lei non mi aveva mai portata dentro. Io in lei non esistevo. Intorno a questa certezza, piccola e profonda come le mie illuminazioni, la mia ira a poco cedette. Non potevo non confrontare la fragile vecchia donna che mia madre stava diventando con la gigantesca figura contro la quale conducevo la mia battaglia. La vedevo difendersi, lei così spavalda una volta, con le bugie e il broncio silenzioso con cui io stessa, bambina, mi difendevo da lei. La nuova, inattesa somiglianza tra di noi mi sorprendeva e mi riempiva di sensi di colpa, senza tuttavia stemperare il mio risentimento in generosità. La mia ira, benché spenta, giaceva difatti nel mio animo come un gigantesco masso erratico a rammentare un cataclisma. Non potevo toccare nulla, non sopportavo di rovistare tra i miei cocci e il mio pattume, vivevo alla giornata e non mi accettavo. Persino il mio diario di adolescente che stavo rileggendo mi dava fastidio. L'avevo ripreso in mano la notte che era nato il mio primo nipotino e avevo incominciato a leggerlo aspettando la telefonata di mio genero. Sfogliando quelle paginette in cui la mia scrittura mi appariva un po' maldestra ed estranea, sentivo che l'attesa nascita mi ricollegava in qualche modo alle righe di allora. Era, come già la nascita di Andrea, di nuovo una fine e un principio, anche se, mi dicevo, d'un futuro subito, alla cui periferia io non sarei stata che un frammento. Proprio in quei mesi, la sera sul Po che si era venuti a parlare di storia valdese, Costanza, consulente alla RAI, mi aveva proposto di scriverne qualcosa. «Perché non ne fai un soggettino? Te lo presento io». «È una storia di uomini», aveva detto la mia amica Luisa. «Tu scrivi sempre storie di uomini». «Ma non è vero niente», mi ero difesa. «Scrivo anche di donne». E lei: «Uno si aspetta sempre che tu vada fino in fondo, ma ci passi accanto». «Le conosco troppo bene», avevo replicato, «non mi incuriosiscono». «Scrivi una volta di te», aveva detto Luisa. «Non posso scrivere di me», avevo detto, «non sono ancora pronta». Era settembre. Fatte le conserve, le portai in cantina. Poi mi divertii a preparare il soggetto. Dopo 30 anni... ritornano a camminare sulle pietraie assolate e sugli altipiani gialli d'autunno, unico rumore il taglio sottilissimo del filo d'erba asciutto nel vento e il fischio d'uccello delle marmotte, i montanari, antenati del nonno Giovanni Daniele, attraverso i colli dei 2000, sotto il peso dei fucili e dei bagagli, con i loro richiami occitani, di valle in valle, i salmi cantati, le viti piantate nelle rocce. Finito il soggetto, lo consegnai e incominciai ad aspettare. La cosa sembrò avviarsi. Avevo qualche timore, che ne sapevo di film e sceneggiati. Mi sarebbe toccato imparare un nuovo linguaggio e sarei stata di necessità sospinta in un posto di secondo piano, personaggio anzianotto e ingombrante. Si fece vivo un regista da Roma al quale la RAI intendeva affidare il film. Era rispettoso. «Capisco che questa storia sia anche storia sua», mi aveva detto, e io ero rimasta un attimo interdetta. ma assai poco chiaro sui tempi e le competenze. Incominciavo a fiutare trappole papiste e romane, per cui rischiavo di dover lavorare molto per la gloria altrui. I suoi valdesi, infine, non erano i miei. I suoi dissertavano di dottrina in maniera loquace, seriosa. I miei preferivano l'archibugio e la zappa. No, mi dicevo, meglio far la fila per prendere lo stipendio del 27 che un anonimo che nulla sa di me mi pagherà in fantasiose banconote diverse da un mese all'altro, diverso, seppur di poche lire, sempre uno stipendio, piccolo, pulito stipendio statale che di certo non vuole riferirsi al lavoro che ho svolto con scrupolo, secondo quel che esige il dio Barbetto. Lo Stato va servito a puntino. Solo così, venuto il momento, ahimè talora inevitabile, si potrà disubbedirgli. Mi ero messa intanto a preparare una documentazione più approfondita sull'argomento. Patrizia Zappa Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jarr. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.